Sono 1.000 euro senza ricevuta fiscale, 1.500 con ricevuta. Per i meccanici di automobili la frase è la regola, non l'eccezione. Lo confermano i dati sulle dichiarazioni dei redditi. I 43.000 meccanici in Italia hanno un giro d'affari stimato in 8 miliardi di euro circa e dichiarazioni dei redditi ridicole. Il 12% dichiara un reddito negativo. La stragrande maggioranza, il 78%, non supera i 50.000 euro lordi l'anno e solo il 3%, in pratica quasi nessuno, ammette di guadagnare oltre 100.000 euro lordi l'anno, circa 50.000 netti. Alla fine, gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate negli ultimi 20 mesi hanno portato alla luce 65 milioni di euro di maggiori imposte evase. Enrico Polella, dell'Agenzia. Ricordiamoci sempre che i soggetti che fanno evasione, oltre a generare un danno diffuso per la collettività e un danno per l'erario, fanno un danno specifico a quelli che sono gli operatori onesti del loro stesso settore. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.